Tutto chiaro? Proviamo. A. Ascolta il dialogo. Che bei colori! Che cosa è? È il biglietto di un concerto. Quando c'è? Beh, veramente c'è già stato sabato scorso, a Padova. Padova? Sei andata così lontano per vedere un concerto? Sì, sono andata in macchina con mia cugina. E com'è andata? Il concerto è stato bello? Sì, siamo state proprio bene, anche se il tempo non è stato buono e abbiamo sentito un po' freddo. Siamo arrivate appena in tempo per sentire l'inizio. Ho avuto un po' di problemi a trovare un parcheggio. Il concerto è finito molto tardi, quasi all'una. Quindi siamo restate a dormire da Stefania. E poi da Stefania, beh, abbiamo chiacchierato quasi tutta la notte. E siete tornate a casa stanche morte. Infatti, domenica sono arrivata a casa verso le 7 e sono subito andata a dormire. E Stefania? Ha cambiato lavoro, non è vero? Sì, ha lasciato il suo vecchio lavoro 6 mesi fa e ha già ottenuto una promozione e un aumento di stipendio. Insomma, è molto più soddisfatta. Beata lei! E tu? Che cosa hai fatto sabato scorso? Niente di speciale. Ho aiutato mia sorella a montare dei nuovi mobili. Un lavoro praticamente impossibile. No, perché? Perché Nina ha preferito risparmiare un po'. Ha scelto dei mobili economici da montare direttamente a casa. Ma tu normalmente sei bravo in queste cose, no? Normalmente sì, ma sabato, dopo un po' di tempo, ho perso la pazienza. Quando sono arrivato da lei, ho trovato un armadio e 2 librerie, tutte da montare. Povero Aldo!